Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, buona domenica, è stata una settimana davvero molto ricca di eventi, di notizie dal mondo della mobilità, così l'attualità ha la precedenza in questo appuntamento con Strade e Motori. Parleremo ovviamente della presentazione e della posa della prima pietra dell'autostrada pedemontana, parleremo e scopriremo anche meglio le caratteristiche tecniche e commerciali della nuova Giulietta, poi ci concentreremo su un argomento molto interessante in questo momento della stagione, parleremo infatti di gomme, di pneumatici per rendere più sicura la nostra guida, ma adesso iniziamo da quello che è l'argomento vero forte della settimana, parliamo infatti di incentivi auto. Le principali case e costruttrici sembravano puntarci tanto, tutte forse tranne la Fiat, che si era detta pronta perfino a rinunciarci. Sta di fatto che martedì scorso il governo, per bocca del ministro delle attività produttive Scajola, ha annunciato che nel 2010, nell'anno in corso, non ci saranno gli incentivi per le vendite di auto nuove, neanche per le vendite delle vetture ecologiche. Cosa cambia allora per quanto riguarda il mercato delle auto? Certo è, sentire le prime reazioni non è una bella notizia, ma ne chiediamo conferma e chiediamo anche qualcosa in più, qualche dettaglio in più al direttore del centro studi Promotor, Gilles Avant, Gianprimo Quagliano. Buona domenica, direttore. Buona domenica. Allora, Quagliano, insomma, la notizia non era del tutto inattesa, no? Quella del blocco degli incentivi, però sicuramente ha scosso parecchio il mondo dell'auto. Qual è stata la sua prima valutazione? Era abbastanza inattesa, perché il governo, per bocca del ministro Scajola, si era molto esposto sugli incentivi, aveva parlato di rinnovo degli incentivi già nel 2009, poi aveva quindi quando ancora erano in vigore gli incentivi appunto dello scorso anno, poi ne aveva ripetutamente parlato successivamente anche in quest'anno, poi addirittura nel giorno dell'annuncio era uscita una pagina su un importantissimo quotidiano nazionale che entrava nei dettagli, quindi non penso certamente che avesse inventato delle ipotesi, erano certamente uno scenario che faceva riferimento a una situazione che era stata in discussione. Poi improvvisamente il 9 febbraio il ministro Scajola ha detto che non ci saranno più incentivi. E cosa è accaduto allora, Quagliano? Beh, è accaduto esattamente, non so cosa sia accaduto, però di fatto sulla via di San Sebastian, che era il luogo dove si svolgeva una riunione europea, il ministro Scajola è stato folgorato dalla verità, come Paolo sulla via di Damasco, e ha deciso che incentivi per il 2010 non ci saranno più. Il costruttore italiano si è dichiarato d'accordo, ma gli incentivi non riguardano solo il costruttore italiano, riguardano in primo luogo i consumatori e poi tutti gli altri operatori. Quello che succede di fatto è che le previsioni per il mercato dell'auto che noi avevamo elaborato sulla base di quello che era lecito ritenere nel dicembre del 2009, e cioè che venissero rinnovati gli incentivi sostanzialmente con una formula analoga a quella dello scorso anno, queste previsioni vanno rifatte e noi ipotizziamo che il mercato subisca un calo in questo anno di almeno il 20% rispetto all'anno precedente. Una situazione particolarmente complicata. Facciamo un passo indietro. Lei ha citato la posizione della Fiat. Ma perché la Fiat era pronta a rinunciare agli incentivi? Anche la Fiat. In questa vicenda degli incentivi si è certamente introdotta la questione di Termini Imerese, che è una questione completamente diversa, che certo non è una questione da risolvere in un'ottica congiunturale come invece è l'ottica in cui vanno affrontati gli incentivi, e comunque Fiat va avanti per la sua strada, per quello che, come è giusto, per quello che riguarda i suoi progetti, i suoi programmi industriali. Ha dichiarato che se deve rinunciare agli incentivi rinuncia. 20% in meno è la cifra che il Centro Studi Promotor più o meno quantifica di calo rispetto allo scorso anno. Questo dal punto di vista, ad esempio, occupazionale, che questo dato che tipo di ricadute avrà? Beh, l'occupazione del settore è di circa 1 milione di addetti. I concessionari erano già in grande difficoltà nel 2009, molti avevano chiuso quote notevoli, bilanci in perdita, ci sono stati anche molti interventi e nel 2010 la situazione ovviamente peggiorerà, ma c'è un impatto anche per le casse dello Stato, perché noi abbiamo calcolato che per le vetture vendute in meno rispetto al 2009 il gettito del 2010 dovrebbe calare di 1 miliardo e 200 mila milioni. Naturalmente se fossero stati adottati gli incentivi il gettito non sarebbe stato complessivo di questa entità, perché da questo miliardo e 200 milioni di IVA in più si sarebbe dovuto detrarre il costo degli incentivi, ma certo, come è sempre avvenuto in passato il bilancio per lo Stato dalle operazioni di incentivazione, il bilancio in termini di gettito è sempre positivo. Le case costruttrici a questo punto possono reagire o stando a guardare un pochino e quindi rimanendo immobili, o invece muovendosi in maniera aggressiva. Cosa faranno? Proseguiranno quella linea degli incentivi fai da te che era emersa anche in questa prima fase del 2010 con ad esempio insomma senza fare nomi, tutte le varie case impegnate a dare degli sconti ulteriori ai propri utenti, oppure ci saranno altre strategie? Penso proprio di sì, perché hanno già cominciato con questa politica di incentivi che gravano sui loro bilanci, è una politica molto aggressiva e la porteranno avanti. D'altra parte le case sempre quando finiscono gli incentivi, è successo così ad esempio con gli incentivi del 97-98 ma anche con quelli del 2002-2003, quando finiscono gli incentivi le case intensificano il loro sforzo promozionale per cercare in qualche modo di coprire il vuoto di domande che potrebbe determinarsi. Questa è una linea che certamente stava portando avanti e porteranno avanti ancora, ma io credo che non si debba rinunciare alla prospettiva di avere incentivi. Fra l'altro c'è una riunione in ambito europeo che sarà il 19 febbraio, quindi sì, l'Africa si sta facendo anche a livello europeo, dove non tutti i paesi hanno rinunciato agli incentivi, perché gli incentivi ci sono ancora in Francia, ci sono ancora in Germania, sono finiti, ma ci sono ancora in Francia, ci sono ancora nel Regno Unito e ci sono ancora in Spagna. E sarebbe buona cosa sicuramente provare ad uniformare quanto più possibile i vari mercati per non creare situazioni di disparità che invece in questo momento sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. Va bene, noi ringraziamo Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor GL Avant, per questo contributo. Direttore, a presto, torneremo a parlare di questi ed altri argomenti grazie alla sua esperienza e alla sua competenza. Buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Ed è arrivato il momento, come vi avevamo preannunciato, di farvi gustare in anteprima una delle novità più interessanti di questo avvio di 2010, forse la prima auto tutta italiana che viene presentata quest'anno. È una novità targata Alfa Romeo e della nuova Giulietta. La presentiamo collegandoci con la redazione di Quattro Ruote. È già pronto il direttore Mauro Tedeschini. Buona domenica, direttore. Buona domenica a voi. Allora, direttore, com'è questa nuova Giulietta? Ma la vedremo definitivamente al Salone di Ginevra. Poi verrà venduta a partire di aprile. L'aprile è una macchina più importante come dimensioni rispetto alla 147, che è il modello che sostituisce, e soprattutto viene costruita su una piattaforma completamente nuova, che dovrebbe essere l'architettura su cui poi la Fiat appunto costruirà tutte le macchine di segmento superiore, cioè sostanzialmente appunto dalla categoria della Bravo, della Delta in su, e quindi una piattaforma che potrà diventare anche a trazione integrale, che quindi si adatterà anche per le automobili americane, soprattutto a marca Jeep, che verranno costruite nei prossimi anni dopo l'accordo con la Chrysler. E quindi diciamo che è una macchina che segna un pochettino una nuova era dal punto di vista tecnico, anche se devo dire il design non è particolarmente innovativo, diciamo che come design è abbastanza tradizionale, se vogliamo. Ecco, direttore, dal punto di vista estetico abbiamo detto, dal punto di vista tecnico è una macchina che ti convince? Beh, insomma, è una macchina che sicuramente avrà tutte le nuove motorizzazioni Fiat, è una macchina, come dicevo, che nasce finalmente su una piattaforma nuova, che per la prima volta utilizza dei materiali nobili come l'alluminio, quindi c'è anche uno sforzo per avere una macchina che sia allo stesso tempo ovviamente resistente nei crash, perché questo è fondamentale, è un prerequisito, ma allo stesso tempo anche che abbia una leggerezza che consente di avere sia prestazioni che consumi contenuti, E quindi diciamo che è sicuramente una macchina che segna un'era nuova, non solo per l'Alfa Romeo ma per l'intero gruppo Fiat. Certo che lascia aperta una domanda, perché appunto dopo la Giulietta, che in realtà era già stata messa in cantiere quando ancora la Fiat non aveva fatto l'alleanza con la Chrysler, dicevo, lascia aperta una domanda, perché a questo punto, a detta dello stesso Marchionne, non si sa bene dopo questa macchina che cosa arriverà, mentre la concorrenza, soprattutto tedesca e più agguerrita, continua a sparare un modello dopo l'altro. Dal punto di vista dei numeri, delle vendite, che tipi di obiettivi si pone Marchionne con la nuova Giulietta? Ma io penso che questa sia una macchina che possa fare un 70-80 mila pezzi all'anno, ovviamente dipenderà soprattutto dal successo che avrà su mercati come quello tedesco, che in questo tipo di segmento, cioè di queste macchine da 4 metri e mezzo, è un pochettino il mercato più importante. Certamente è un settore molto ma molto affollato. L'Alfa Romeo, come dicevo, arriva anche con motorizzazioni nuove, all'inizio ci saranno 3 benzina e 2 diesel. Ovviamente lì si gioca un pochettino anche il futuro del marchio, perché appunto l'amministratore delegato Marchionne ha detto molto chiaramente che in futuro l'Alfa Romeo dovrà sostanzialmente pagarsi le sue spese, quindi ci saranno nuovi investimenti solo se c'è ritorno, mentre si sa che sostanzialmente negli ultimi 10 anni l'Alfa Romeo purtroppo ha soltanto perso soldi mangiandosi un pochettino della dote di Fiat Auto, quindi siamo in un momento molto delicato. Sui vari blog, compresi i nostri, gli affisti sono molto arrabbiati, perché dicono che la Fiat raccoglie in realtà quello che ha seminato. Comunque sia, insomma, siamo alla vigilia, credo, di decisioni importanti, e ne sapremo di più quando a metà aprile Marchionne presenterà il piano modelli, che coprirà da qui al 2014, e quindi sarà qualcosa di molto significativo, ovviamente non solo per Alfa Romeo ma anche per Fiat Lancia e poi per Chrysler, Jeep e Dodge, insomma per tutto il gruppo. Direttore, per concludere, voi l'avete vista un pochino in anteprima, quando sarà visibile al grande pubblico la Giulietta e quando sarà invece dai concessionari, quando entrerà sul mercato? Allora, verrà svelata definitivamente, come dicevo, al Salone di Ginevra, e quindi a partire dal 2 di marzo, quindi fra meno di un mese. Per quello che riguarda i concessionari, io credo che, diciamo, il porte aperte, che è un pochettino il battesimo commerciale, sarà subito dopo Pasqua, e quindi che la macchina già da metà aprile sarà vendibile, e quindi sostanzialmente è una macchina che già da maggio-giugno verrà consegnata. Viene costruita a Cassino, quindi in uno stabilimento italiano. Ovviamente noi ci auguriamo che abbia successo, anche perché sappiamo che gli stabilimenti italiani del gruppo Fiat non godono un grande momento, e quindi il fatto di costruire macchine di successo poi è l'unica garanzia di tenere il posto di lavoro, al di là di tutte le trattative sindacali, che per carità sono valide, ma insomma sappiamo bene che avere un modello di successo in casa è la polizza migliore. Noi ci uniamo ovviamente a questo augurio, ringraziamo il direttore di Quattro Ruote, Mauro Tedeschini, grazie ancora, buona domenica direttore. Buona domenica, arrivederci. Strade e motori. Strade e motori. Ancora una buona domenica, amici di Radio 24. Iniziamo la seconda parte con un po' di notizie dal mondo della mobilità. Poi parleremo di pneumatici, ma anche della posa della prima pietra di una infrastruttura davvero importante per il nostro paese. La variante di Valico sull'Autostrada del Sole tra Emilia-Romagna e Toscana sarà aperta entro il 2013. Lo ha annunciato Gennarino Tozzi, direttore operativo sviluppo rete di Autostrade per l'Italia. Tra gli interventi già in programma, anche gli ampliamenti della A14 da Bologna San Lazzaro a Imola, quelli per la Bologna Ferrara, per la Piacenza Modena e per il tratto da Rimini a Cattolica. L'auto è il luogo dove le coppie litigano di più, e non solo in Italia. Secondo una ricerca, il 69% degli automobilisti del nostro paese, ma anche di Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna, ha avuto accese discussioni col partner durante i viaggi in macchina. Motivi dei litigi, in particolare, la strada da seguire, la temperatura a bordo e la velocità di guida. Debutterà al prossimo Salone di Ginevra, in marzo, la nuova Honda CR-Z, la compatta sportiva della casa giapponese. La CR-Z è la prima auto ad offrire un sistema ibrido con cambio manuale a 6 rapporti, capaci di sfruttare al massimo i 174 cavalli, mantenendo bassi consumi ed emissioni. È stato presentato a Londra il Burgman della Suzuki alimentato a idrogeno. Il modello si chiama Fuel Cell ed è uno scooter equipaggiato con celle combustibili prodotte dall'azienda britannica Intelligent Energy. il cilindro di idrogeno può essere ricaricato in pochi minuti, ha un'autonomia pari a circa 350 km e offre prestazioni comparabili con il Burgman ad alimentazione tradizionale. Nelle previsioni, nei progetti, ma dobbiamo dirlo anche nelle speranze di istituzioni, cittadini, imprese, dovrebbe essere l'infrastruttura in grado di far fare il salto di qualità al sistema della viabilità in Lombardia e di conseguenza tutto il centro-nord del paese. Parliamo dell'autostrada Pedemontana-Lombarda che unirà la 8 e la 4, quindi le province di Varese e Bergamo di fatto e tutta l'area che poi è fortemente industrializzata a nord di Milano, passando anche per le province di Como e Monza, Brianza. Sabato scorso c'è stata l'apertura del primo cantiere a Cassano Magnago in provincia di Varese. Per fare un po' il punto della situazione abbiamo deciso di invitare l'amministratore delegato dell'autostrada Pedemontana Lombarda, l'architetto Salvatore Maurizio Lombardo. Buona domenica. Buona domenica a lei, dottore, e a tutti i suoi ascoltatori. Innanzitutto la prima domanda. 50 anni che aspettiamo un'infrastruttura del genere, lo aspettano i cittadini lombardi, gli imprenditori. È la volta buona? La vedremo passare finalmente dai sogni, dalle carte al terreno? Direi di sì, dobbiamo essere ottimisti, finalmente siamo partiti. Siamo partiti per la verità il 20 gennaio, il giorno dopo che c'è stata la registrazione delle Corte dei Conti. E invece sabato 6 febbraio abbiamo fatto l'inaugurazione in pompa magna. Comunque i lavori sono già partiti. La posa della prima pietra di un'opera che ha dei numeri decisamente importanti. Vogliamo ricordare di quanti chilometri si comporrà l'autostrada Pedemontana? Sì, sono totale 167 chilometri tra 87 di pura autostrada e 70 di altrettanti invece sviluppo tra snodi e quant'altro. Che costerà? Quanto? Il budget prevede un investimento totale di 5 miliardi di euro tra opere compensative, oneri finanziari e costo puro di costruzione. Dal punto di vista della ricaduta per quanto riguarda il lavoro, quante persone saranno impiegate per la costruzione di questa infrastruttura? Grazie di questa domanda, perché io penso che proprio in questi momenti così difficili sia importante dare anche efficacia e ottimismo anche in un comparto come quello nostro delle costruzioni stradali, dove francamente siamo un po' fermi. Bene, consideri che l'indotto in 5 anni produrrà qualcosa come 40.000 unità lavorative. Mi permetto di dire 40.000 famiglie saranno interessate a quest'opera. Per quanto riguarda il risparmio in termini di tempo, no? Se andiamo molto sul concreto, sì, per chi ad esempio vuole andare da Malpensa a Bergamo o viceversa? La tratta più lunga, quindi i due aeroporti. Oggi grosso modo ci vogliono 90 minuti, con il sistema autostradale Pedemontana scenderanno massimo a 60 minuti. Quindi un risparmio di un terzo più o meno sì. del percorso. E per quanto riguarda invece l'impatto ambientale, che è un altro degli argomenti che stanno a cuore sicuramente ai nostri ascoltatori e che sono anche più complicati e più delicati da affrontare in questi momenti? Direi che tutti quanti oggi siamo ingessati, siamo fermi. Questo sistema autostradale drenerà qualcosa come 1700 chilometri di strade oggi ferme o quantomeno molto intasate. Significa sicuramente risparmiare 35 milioni di carburanti, di litri di carburante che oggi purtroppo li buttiamo al vento. Prima citavo Malpensa e non a caso, una infrastruttura del genere potrebbe anche avere il non facile compito di rilanciare le ambizioni di questo hub aeroportuale che così vita difficile ha avuto negli ultimi anni, secondo voi? Ma guardi, oggi l'artigiano di Como che deve andare a consegnare il pacco che deve partire via aerea ci impiega mediamente 45 minuti, se noi lo portiamo a 30 minuti sono convinto che abbiamo fatto un ottimo servizio a questa persona e soprattutto anche dà la possibilità al recepimento delle merci per via aerea, quindi il sistema in questo caso di Malpensa, di recepire più merci perché poi la gente è più invogliata a portarne. Quindi io ritengo che la logica porta un impulso anche al sistema, in questo caso aviazione. Ricordiamo un pochino i tempi per la realizzazione di quest'opera, ci saranno vari step intermedi e quando ci sarà poi il completamento? Noi dovremo essere pronti per l'Expo, quindi 2015, l'evento mondiale, noi dobbiamo essere pronti. E fino ad allora ci saranno delle aperture parziali? Sicuramente sì, la tratta che abbiamo già inaugurata sarà la tratta che verosimilmente sarà la prima a essere funzionale, già di per sé sarà funzionale il collegamento più in basso tra Varese e Como, passando appunto per la Cassano Magnago, quindi per l'aeroporto. Chi utilizzerà soprattutto questa autostrada pedemontana? Cioè, quale sarà il vostro, tra virgolette, bacino di utenza? Certo. Sicuramente non tutti faranno la tratta lunga, come lei ha detto, da Varese a Bergamo, ma saranno tutte tratte molto limitate, di 10 al massimo 15 chilometri, quindi significa inneste ed uscite molto veloci. Per fare questo abbiamo anche implementato tutto il sistema telematico in modo tale che l'esazione del pedaggio assolutamente non crea né coda né ritardi di tempo, quindi entrare velocemente, uscire velocemente, questo è quello che noi vogliamo realizzare. Chi lo utilizza? Chiunque, la gente che va a fare la spesa, la gente che lavora, la gente che va anche a passeggio e soprattutto, se mi permette, i pendolari. Allora, noi continueremo a seguire anche con il suo aiuto, dottor Lombardo. Grazie. Passo passo la Grazie. Realizzazione di quest'opera che riteniamo davvero fondamentale, e nel frattempo le auguriamo ovviamente buona domenica innanzitutto e poi buon lavoro per il proseguo della vostra Grazie attività. Grazie e buona domenica a tutti quanti di nuovo. E grazie allora all'amministratore delegato dell'autostrada pedemontana lombarda, Salvatore Maurizio Lombardo. È arrivato il momento di parlare di uno degli elementi fondamentali per la nostra e per la vostra sicurezza su strada. Parliamo infatti di pneumatici e lo facciamo collegandoci con Guido Schiavon, presidente di Federpneus, l'associazione che riunisce una gran parte di rivenditori di pneumatici, insomma un vero esperto del settore. Presidente Schiavon, buona domenica. Grazie a lei. Allora, presidente Schiavon, la stagione è ancora nel pieno, ahimè, delle sue temperature invernali, fa parecchio freddo e quindi anche le condizioni delle strade, immaginiamo anche dalle sue parti, non sono particolarmente semplici da affrontare. Rimane comunque valido, nonostante siamo a metà febbraio, l'invito ad utilizzare pneumatici invernali, pneumatici da neve, pneumatici insomma costruiti per queste condizioni? Ma certamente sì, perché è un pneumatico invernale, ma è un pneumatico anche, diciamo, antipioggia se vogliamo, è un pneumatico polivalente, per cui anche in questa stagione che va verso la primavera, quindi una stagione piovosa, assolve perfettamente al proprio ruolo. Quali sono, presidente, le caratteristiche che deve avere un buon pneumatico da pioggia o comunque invernale che l'utente non può dimenticare quando va ad acquistarlo? Sono pneumatici, si equivalgono un pochino tutti quelli che assolvono a questo tipo di ruolo. Ovviamente la mosca deve essere morbida, la mescola, e ci deve essere una certa ancorizzazione del battistrada che assorbe proprio, farebbe un po' da ventoso se vogliamo. Sì. Quindi nei terreni o nelle strade abbastanza umide, bagnate, e assorbe perfettamente il proprio ruolo, come dicevo prima. Avete più o meno calcolato di quanto si riduce la possibilità di un incidente, insomma, o di quanto aumenta la stabilità del veicolo utilizzando questi pneumatici anziché quelli classici estivi? Ma cioè percentuali vere e proprie non è che ce ne siano. Indubbiamente io penso che un 20-25% in più assolve al proprio ruolo. Restando sempre al discorso sicurezza, quali sono gli altri elementi da non dimenticare quando ad esempio ci si mette alla guida prima di un viaggio? Immaginiamo la verifica della pressione degli pneumatici. Ma indubbiamente quella è importantissima, importante per mille motivi, per la stabilità del veicolo, l'aderenza su strada e soprattutto per i consumi. Penso che sia una raccomandazione che dovrebbe essere data a chiunque in qualunque momento, indipendentemente dalla stagione, in momento del tipo di pneumatico e del tipo di percorrenza. Chiaramente i pneumatici la pressione viene controllata a freddo. Va bene, noi insomma ci siamo segnati un po' tutti questi consigli utili che il Presidente ci ha voluto fornire, speriamo che i nostri ascoltatori facciano altrettanto e le auguriamo una buona domenica e ringraziamo ovviamente per la sua partecipazione su Radio 24. Grazie Presidente Schiavon, a presto. Volevo ringraziare voi della gentilezza e soprattutto dell'opportunità di essere qui. E allora siamo arrivati alla conclusione di questo nostro viaggio settimanale, tutto per questo appuntamento con Strade e Motori. Vi ricordo che sul sito radio24.it potete trovare tutte le nostre trasmissioni, approfondire gli argomenti che abbiamo toccato anche oggi. Se avete voglia di scriverci fatelo pure, l'indirizzo stradeemotori@radio24.it. Continuate a raccontarci la vostra mobilità quotidiana, stiamo raccogliendo le vostre storie, i vostri racconti sulle strade che percorrete ogni giorno per andare al lavoro, per andare a scuola, quali sono i problemi, gli incontri che vi capita di trovare sul vostro percorso. Vi daremo spazio nelle prossime settimane. Grazie allora per aver viaggiato con noi, grazie a Peter Rabesca per averci guidato in regia. A tutti voi l'augurio di buon proseguimento con i programmi di Radio 24.